Innanzitutto, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Forse qualcuno mi conosce anche perché insomma è da anni che lavoro qui sull'Alpe Cimbra e quindi magari qualcuno ha avuto modo di venirmi a trovare nella fattoria. Ecco, allora sono Marisa Corradi, ho 52 anni, sono un'imprenditrice agricola e vivo con la mia famiglia a Lavarone, dove ho questa azienda zootecnica che gestisco da tanti anni. In particolare sono 12 anni che abbiamo trasferito la nostra attività in un'azienda agricola nuova che ha permesso ai nostri animali di vivere in modo diverso e soprattutto anche ha cambiato le nostre abitudini di lavoro, perché quella che abbiamo costruito è una stalla a stabulazione libera che ha regalato ai nostri animali la libertà. Ecco, nella mia storia dico sempre ci sono 4 figli, un marito, 4 nipoti e 70 vacche. Perché comunque è una storia familiare, perché comunque è una storia di lavoro, ma è una storia di vita. Qual è il suo sogno più grande? Allora, il mio sogno più grande è iniziato tanti anni fa, quando io sono nata e cresciuta in una famiglia contadina. Già dagli 8 anni facevo la pastorella, sono cresciuta come una piccola Heidi. E il mio compito, già allora durante le vacanze estive, era quello di portare al pascolo le mucche del mio papà. Partivo la mattina, zaino in spalla, una bottiglia d'acqua, un panino, un libro e passavo la mia giornata con queste mucche per farle pascolare, per portarle dove c'era dell'erba che dovevano mangiare. Cosa succedeva? Quando poi la giornata lavorativa di questi pastorelli finiva, si rientrava nella stalla e le mucche entravano e ognuna di loro aveva un posticino e vivevano all'interno della stalla legate. Il mio sogno già allora era quello di cambiare la loro vita, di costruire qualcosa che permettesse loro di vivere in modo diverso. E negli anni ci sono riuscita. Vi dirò che comunque la mia storia è una storia anche un po' con varie sfaccettature, perché mio padre allora mi diceva sempre non fare la contadina, perché è un lavoro troppo faticoso, studia. E così, proprio perché era uno dei desideri del mio papà, mia sorella è diventata maestra, forse qualcuno la conosce, la maestra Marina, che ha lavorato qui a Folgheria tanti anni, e io sono diventata ragioniera. E ho lavorato per 10 anni da un commercialista. Ho imparato un sacco di cose, ma poi dentro di me comunque questo sogno continuava a ribollire. E ho avuto la fortuna comunque di costruirmi una famiglia con Fulvio, mio marito, che è anche lui contadino, e poi nell'anno 2009 abbiamo scelto di fare questo salto di qualità e di cambiare la vita dei nostri animali con questo investimento. Oggi i miei animali, le mie 70 mucche, piccole e grandi, vivono libere nella stalla e non c'è la catena per nessuno, quindi diciamo che il mio sogno è realizzato. Poi io ne tengo sempre nel cassetto anche degli altri sogni, non ho finito di sognare. C'è stato qualcuno che ha cercato di ostacolare la sua attività? Anche la mia mamma era un pochino titubante, e mio padre muore che io ho 14 anni, e quindi anche per la mamma voleva dire cercare di creare da sola un futuro per le sue figlie. Allora, di buono c'è stata una cosa meravigliosa, che quando il mio papà è mancato, nell'estate dell'84, avevo 14 anni, i contadini della zona di Lavarone si sono messi tutti d'accordo per aiutare la mia mamma ad andare avanti. E in effetti la nostra fattoria ha avuto modo di continuare per vari anni, per tutto il tempo che noi abbiamo studiato. La mia mamma in quegli anni ha vissuto grandi difficoltà anche organizzative per portare avanti la stalla, quindi diceva anche se te fai qualcos'altro, però lei sapeva che i miei occhi brillavano nel vedere gli animali e sapeva che non mi sarei difficilmente potuta allontanare da questa cosa. Io sono cresciuta negli anni dove c'era tanto lavoro manuale. Si andava nel bosco a raccogliere le foglie di faggio per fare il letto alle mucche, si raccoglieva il fieno ancora nel lenzuolo, poi un po' alla volta le cose sono cambiate, si sono diffusi i trattori, le macchine, quindi anche l'organizzazione della vita dei contadini è cambiata e quindi anche la fatica si è in qualche modo ridotta. Nelle parole e nei fatti della mia famiglia c'è sempre stato comunque l'obiettivo di dire comunque fate quello che vi realizza. Mia sorella è diventata maestra, io ragioniera, ma comunque poi tutto quello che abbiamo imparato anche in quegli anni di studio ci è servito nella vita. Quindi gli ostacoli sono comunque stati superati con una collaborazione familiare importante. Cosa significa a priori questo tipo di attività essendo donna folgaria? Innanzitutto, per essere imprenditrice agricola, io ho frequentato la scuola Agraria di San Michele e questo percorso è stato molto bello perché innanzitutto ha toccato tutti gli argomenti che l'imprenditore, l'imprenditrice ha bisogno per svolgere la sua attività, quindi di conoscenza degli animali, di conoscenza del terreno, delle culture, di quello come possiamo migliorare il nostro lavoro, ma poi anche quello che è l'aspetto organizzativo dell'attività, le assunzioni, come organizzare la vita della società, perché la nostra è una società agricola semplice, dove io ho delle responsabilità alla stessa stregua di mio marito. È stato interessante anche perché mi ha permesso di confrontarmi con delle realtà diverse rispetto alla mia realtà di lavorone, perché in questo gruppo di studenti c'erano dentro studenti di tutto il Trentino e quindi anche realtà diverse e realtà organizzate in modo diverso. E soprattutto quello che mi ricordo che è stato importante è stato un lavoro di gruppo dove in un tavolo, come proprio degli studenti giovani, abbiamo dovuto mettere insieme le nostre esperienze e approfondire gli aspetti della vita contadina proprio a 360 gradi. In particolare il brevetto di imprenditore agricolo mi è servito per avere maggiori aiuti sulla costruzione che abbiamo fatto. Quando si tratta di costruire, di fare investimenti importanti, anche quella percentuale diversa fa la differenza su quello che è poi la realizzazione complessiva di un investimento importante. Ha mai pensato di vendere l'attività magari in qualche problema finanziario o anche di organizzazione? Allora, io in effetti vi dico, amo il mio lavoro e sono nata per fare questo. Dopo tutte le varie cose che ho fatto, il mio primo lavoro ho fatto la commessa in una rosticceria, vendevo polli, ma mi piaceva anche quello. Nel senso che comunque io ho sempre visto nel lavoro un modo anche per esprimere la personalità, il modo di fare. E quindi vi dico che mio figlio dice sempre che io sono proprio nata per lavorare. Allora, io non ho mai pensato di interrompere il mio lavoro, però se devo essere sincera, ho qualche dubbio su come continuerà la mia attività. Nel senso che, vi ho detto, io sono in società con mio marito, una società agricola semplice, ho dei dipendenti che mi aiutano a svolgere i lavori, soprattutto nei momenti più impegnativi, e uno dei miei dipendenti è mio figlio. Che io dico sempre, Luca, ti vorrei imprenditore, non dipendente, però è un pochino difficile per lui fare questa scelta importante, perché da dipendente in qualche modo lui si sente un pochino più libero. Chiaramente la mia sveglia suona ogni giorno alle 5 e mezza, 365 giorni all'anno. Mi sento una grande responsabilità sia per la vita dei miei animali, sia per tutte le cose che alla mia azienda sono collegate, anche perché comunque la nostra azienda produce latte che finisce al caseificio degli Altipiani del Vezzena, che è una cooperativa sociale, una cooperativa agricola, la cooperativa agricola più vecchia d'Italia, nata nel 1864, della quale io sono anche la responsabile, sono presidente. Quindi vuol dire che lei è una catena di lavori legati all'azienda agricola, perché le varie aziende che ci sono qui sull'Alpe Cimbra, Folgoria Lavorone Luserna, conferiscono il latte al caseificio e poi questo latte diventa formaggio e quindi c'è anche una rete economica importante che abbiamo qui sugli altipiani. Non so quale sarà quando io sarò vecchietta, quale sarà il futuro della mia azienda. Dovete pensare che un'azienda agricola oggi dà tantissime possibilità. Produciamo latte, allevo animali, forse l'aspetto più importante, più bello, perché tutti gli animali che vivono con me sono nati con me. Io sono un pochino con l'ostetrica nella fattoria, perché faccio nascere in un anno 50 vitellini. Poi c'è il discorso della fattoria didattica. Dovete pensare che l'azienda agricola è multifunzionale, ha tante attività ad essa legate. Io spero comunque, insomma, che una di queste attività i miei figlioli la continuino. a volte anche tutto quello che è la complessità della gestione un pochino spaventa, però io dico sempre che fatto un passo alla volta, le cose, e anche e soprattutto imparate col tempo, è una cosa meravigliosa. Quando ha capito che questo era il lavoro giusto per lei. Ah, vi ho detto, già da quando ero piccola il mio sogno era quello di vivere con gli animali. Allora, io dico sempre che gli animali parlano con gli occhi, o meglio, le mucche parlano anche con le orecchie e con il mondo, il loro modo di agire e di stare. Soprattutto per lavorare con gli animali bisogna avere un particolare feeling con loro e soprattutto trovare soddisfazione da tutto quello che si fa giornalmente. Insegnare che la mucca va rispettata perché il suo grande lavoro è far latte e lo fa nei tempi e nei modi per produrre un latte di qualità. Come vede il futuro? Questo è un momentino particolarmente delicato, sembra di essere in un tunnel veramente, perché è qualche anno che stiamo un pochino in difficoltà e soprattutto adesso negli ultimi tempi l'avrete sentito anche alla radio, qualche stalla che chiude, ce l'abbiamo perché i costi sono diventati veramente tanti e soprattutto sono triplicati rispetto a quello che era un po' l'economia degli anni passati. Allora io di solito vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi sono una persona positiva. Io ho fiducia che questa situazione prima o poi deve finire e soprattutto i contadini nella loro storia sono sempre stati abituati un pochino a fare un buchetto nella cintura e tenere i denti stretti e provare a farcela comunque. L'altra cosa, ma è mai stanca andando a dormire alle 10 e svegliandosi alle 5? Eh Cioè. sì, allora anch'io chiaramente sono stanca come tutti, però insomma la stanchezza anche in alcuni momenti quando si ha da fare passa in secondo piano. 5 giorni fa sono nati 2 gemelli e avevo visto questa mucca, mi dico mi aveva parlato con gli occhi. Infatti ho telefonato a mio marito perché non ho la casa vicino alla fattoria e dico guarda che non vengo a casa, è meglio questo qua. E infatti poi sono nati questi 2 gemelli, ma nonostante che non sono andata a dormire, la gioia della vita compensa la stanchezza. Dovete paragonare la vita della mucca un pochino come la nostra. La nostra è una grande maternità, dove la difficoltà più grande è proprio dare alla luce questi vitellini, perché anche il momento del parto è un momento delicato dove la mucca può andare tutto bene o come magari ci possono essere qualche difficoltà. Quindi è proprio una storia di mamme. Grazie.